Pam. Ciao a tutti. Pigi il verde ora. Ma subito. Te ti addormenti. Pigi il verde, dai. Tutti convocati di Carlo Genta. Di Kulić è un tiro che Campriani può sicuramente battere. 10.7 Nicolò Campriani è campione olimpico della carabina ad aria compressa, scarica tutta la concentrazione avuta in questi 20 colpi guardando il pubblico, sfidando il pubblico con la sua rabbia, la sua voglia di conquistare questa seconda medaglia d'oro della sua carriera. Scivola via il piattello di Giovanni Pegliello e allora Glasnovic ha l'inerzia della gara dalla sua parte. Qualora dovesse colpire il piattello sarà campione olimpico. Rompe Glasnovic, medaglia d'oro alla Croazia, medaglia meritata, combattuta. Ciao a tutti, dunque 3 più, insomma, saliamo nel medagliere, Giovanni Capuano. Dobbiamo lucidarci gli occhi. Questa mattina ho sfogliato la Gazzetta dello Sport ed eravamo ancora terzi. Poi evidentemente c'è stata la notte, credo che siamo scivolati in quarta posizione. Ma sì, giochi della notte che però non inficiano. Ragazzi, siamo a martedì, Non inficiano quanto di meraviglioso stanno facendo i nostri atleti in questi sport che... Tanti sì, ma non minori, sono gli sport sfigati, minori, dicono, quelle cose lì. Perché non ne parlate tutti i giorni? Perché poi voglio vedere chi ci sta ad ascoltare, voglio vedere chi, ripeto, compra i diritti, compra le schede delle PTV per vedere a novembre o a dicembre la scherma o il tiro a volo, la carabina, eccetera. Difatti io, scusa, ho trovato un po' fuori posto le parole di Malagò alla vigilia, quando aveva fatto quella famosa intervista dicendo 25 no, anche 20 potrebbero andare bene di medaglie, e poi aveva detto le medaglie si contano e si pesano. Per carità, il discorso può anche essere comprensibile, però fatto dal presidente del CONI, secondo me, insomma, per il presidente del CONI gli sport sono tutti uguali. Allora, facciamo dare qualche voto al maestro Marino Bartoletti. Io gli do 5 per quell'intervista lì. Ah, non a Marino. No, a Malagò, che tra l'altro mi sa che ha toppato anche la previsione delle medaglie. E allora, sentiamo un po' di voti a Marino Bartoletti. Ciao Marino! Condivido il 5, ciao ragazzi. In realtà Malagò le medaglie le conta e come? Non esiste una bilancia, non si dà un peso a una bilancia. Si dà un peso a quello che è un bottino complessivo... Un presidente del CONI è sempre stato pronto a difendere, a volte, diciamolo, perché è accaduto anche questo in passato. Noi che critichiamo i famosi doping di Stato, eccetera, eccetera, come ci sono degli anni in cui anche l'Italia si è battuta per avere più medaglie, dopodiché poi non è che guardava in faccia allo sport che c'era dietro a quella medaglia. Sì. Queste Olimpiadi sono sicuramente una bellissima tavolozza, secondo me, ma sai perché? Sapete perché? Non soltanto per le medaglie che abbiamo conquistato in sport, che come avete detto giustamente. Come dire, ci appassionano soltanto ogni 4 anni, forse per certi versi è giusto anche sia così dal punto di vista televisivo, ma perché sono belle le facce dei nostri atleti che hanno vinto queste medaglie. Sono bellissime le facce dei nostri medagliati, sono simpatici, sono un'Italia che dà l'idea addirittura di essere ottimista, di guardare avanti. Ecco, proviamo a giocarci questa metafora in queste Olimpiadi che sicuramente ci stanno dando grandi soddisfazioni. Guarda, io davanti a me sono il mio studio, ho qualche cimelio, come potete immaginare non mi mancano i cimeli, anche se in realtà non sono stato così bravo a raccoglierli, ma ho una spada, una sciabola e un fioretto. Il fioretto è quello usato, l'ultimo usato dalla Trillini alle Olimpiadi del 2008, c'è una dedica che mi ha fatto personalmente. La spada è quella con cui vinsero nel 96 nel titolo a squadre i nostri ragazzi, e la ricordo meravigliosamente bene, Cuomo, Mazzone, Randazzo, e l'altra è una sciabola, niente meno che del grande Maffei, che mi ha lasciato nel senso che me l'ha lasciata con grande piacere. Per me le Olimpiadi rappresentano ancora adesso, e forse sarò romantico, il momento momento più alto e più esaltante dello sport, vissuto in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi lasciatemi essere adolescente, anzi, lasciatemi essere bambino come lo ero nel 1960, quando per la prima volta, come tanti italiani, vide le Olimpiadi in televisione e ebbi la sensazione che quell'avvenimento non cambiò soltanto la storia di questo paese, quella con la S maiuscola, ma probabilmente anche la mia vita, perché mi venne forse allora il desiderio di raccontare le emozioni dello sport. Ho parlato troppo? No, assolutamente. Comunque 5 a Malagò, ecco. 5 a Malagò, adesso sulla scorta della voce di Campriani, nostra ultima medaglia d'oro, quella di ieri, ti faccio un'altra domanda. Sentiamo Campriani. Il mio pensiero buono di oggi era che, per quanto io odio questo sport, perché mi sono ritrovato veramente a odiarlo, cercavo ieri di capire un motivo per cui ne valesse veramente la pena di stringere i denti in situazioni così estreme e ho pensato... Oggi ce l'hai al collo il motivo? No, guardi, ho veramente il motivo vero più di ogni medaglia economico così sia è che forse grazie a questo sport ho avuto modo di stare un po' più insieme a mio padre. Marino, io ti chiedo un voto difficile in questo caso, che è quello per l'opinione pubblica, per gli ascoltatori, i lettori, quelli che guardano la televisione, che tutte le volte sistematicamente ci rimproverano nel migliore dei casi, ci insultano in maniera considerevole perché si parla solo di calcio, perché a questi non date sufficiente attenzione, perché esistono ogni 4 anni, perché non vi conviene, per queste e molte altre ragioni. Ora io mi domando chi, ripeto, comprerebbe, chi pagherebbe la pay tv per guardare la scherma o addirittura il nuoto o il tiro a volo a novembre, dicembre, gennaio, per vedere un campionato italiano, per vedere un campionato europeo. Ti chiedo di dare un voto a questa voce. Allora, guarda, quando ero direttore del Guerin Sportivo e c'erano le Olimpiadi vendevo pochissimo, perché nel momento in cui cominciava il campionato i miei lettori pretendevano che io parlassi della campagna acquisti e me lo dimostravano, non soltanto nelle lettere, sai che allora c'era un dialogo piuttosto intenso, certo, con il direttore del Guerin Sportivo, anche se non esistevano i social, e anche nel fatto che comunque loro volevano vedere le facce dei calciatori. In televisione la cosa è leggermente diversa, perché comunque le Olimpiadi capitano in un momento molto particolare, che è l'estate, capitano in un momento in cui tutto ci diverte e tutto ci appassiona e ci piace sentirci italiani. Però guarda, declinandolo in chiave calcistica, questa riflessione che hai fatto, anche nel calcio la passione che trovi per la nazionale, per gli europei e per i mondiali, non la trovi per le amichevoli, certo, né nella frequentazione, certo, negli spalti, certo, né nel quello che è il rendimento dei giornali il giorno dopo e neanche negli ascolti televisivi. Quindi è un voler non essere mai contenti del quale dobbiamo prendere atto, faccio una ragione. È chiaro che c'è chi come voi, secondo me invece, dedica spazio in maniera molto intelligente e anche molto ben distribuita alle cose di cui la gente ha piacere parlare. C'è sempre qualcuno che pensa di rappresentare le cose più importanti del mondo, perché poi, ritornando ancora al calcio, se accade una cosa spropositata che riguarda l'Inter, la Juventus e il Milan, cose su cui i giornali naturalmente fanno i titoli più importanti, a volte anche le prime pagine dei quotidiani non sportivi, è inevitabile che se ne parli. Però c'è sempre il lettore, c'è sempre l'ascoltatore, c'è sempre il qualcuno che dice perché non avete parlato della mia squadra. Mi sembra, sai, la metafora di Ezio Luzzi, ti ricordi? Quando in tutto il calcio minuto per minuto interveniva per dire che c'era stato, certo, un corner, certo, in Serie B, certo. Ecco. Tutti lo deridevano per questa cosa, però poi alla fine, insomma, la gente voleva ascoltare i gol della Serie A. Con grandissime litigate, con Ciotti e Ameri, che ovviamente non apprezzavano. Non erano litigate, erano sciabolate, per la verità, perché quando Luzzi incautamente interrompeva Ciotti, insomma, si capiva che Ciotti era, come dire, leggermente lesa maestà. Posso introdurre un argomento in più? Perché lo scrive un amico e ci chiede, e chiede a Marino Bartoletti cosa ne pensa della storia del titolo sulle cicciottelle, a proposito di giornali, olimpiadi. Rapidamente, in 30 secondi, la vicenda, questo titolo del quotidiano sportivo, Resto del Carlino, Il Giorno, di un paio di giorni fa, tiro con l'arco, il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico. Grande arrabbiatura della Federa tiro a volo, oggi è stato licenziato il direttore. Qualcuno ha scritto che insomma era un titolo di cattivo gusto, però sui giornali si legge anche di peggio. Allora, guarda, io da 3 giorni sono niente meno che social, prendetene atto, ragazzi. Dacci le coordinate. Io lo so perfettamente, per la cronaca. E fra le poche cose che cerco di scrivere in maniera alternativa, l'altra notte ho scritto tutto il mio affetto, sinceramente, per queste ragazze per le quali abbiamo trepidato. Cioè, vedere Gwendalina che faceva un 10 dopo l'altro, no? E sono cose che ci appassionano, non neghiamolo, dai, al di là di tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. E poi fare un 3, poverina, come fa mio nipotino quando tira le freccette contro il bersaglio e sta assassinando il muro del garage. Vedendoci sfuggire la semifinale, poi perdendo male, per la verità, anche la finale per il terzo e quarto posto, questa cosa mi ha terribilmente intenerito. Ho detto: forza ragazzi, siamo tutte vicine a voi perché rappresentate comunque il nostro desiderio di normalità e vediamo in voi comunque delle ragazze vincenti che si stanno concentrando, stanno facendo delle cose molto importanti. E ho detto: andate avanti con l'individuale per dimostrare che non è vero che Lady Marion tira di freccia meno bene di arco di quanto non tira Robin Hood. Ho ricevuto per fortuna molti consensi, ma ho ricevuto anche la segnalazione appunto di questo caso che fra l'altro sfiora un collega che io stimo moltissimo come Beppe Tassi, e devo dire che prima guardando il TG2 e vedendo scorrere il sottopancia una 20ina di volte in cui c'era scritto Tassi licenziato per questa cosa, neanche fosse un criminale, mi ha fatto sinceramente male. Conoscendolo, a me piace pensare che il titolo fosse forse non azzeccatissimo ma assolutamente affettuoso. È anche vero che c'è chi ha scritto che lo stesso sarcasmo fosse peggiore ben usato anche 4 anni fa nel confronto dei cicciottelli maschi, perché ti ricordi che non fumo esattamente molto gradevoli nei confronti di quella squadra che pure ci emozionò tanto. Diciamo che effettivamente bisognerebbe trovare un po' di equilibrio nelle cose. Allora, chi ha fatto quel titolo non credo necessariamente Tassi, anche se ne è formalmente responsabile. Forse poteva essere un po' più elegante, anche se secondo me ha voluto essere sensato, spiritoso, affettuoso, non so se riuscendoci. Dopodiché però veramente ci vuole un pochino di equilibrio, cioè adesso non voglio andare fuori strada io, però come dire, se si dà del cicciottello a un uomo dobbiamo soltanto sorridere. Se lo si fa con una signora, cosa che io non farò mai per la verità, improvvisamente si chiedono le teste. Diventa un caso tra virgolette politico, diventa un caso tra virgolette di politico e corretto. Sì, è così, Marino. Allora, su un altro argomento e con un'altra voce, che è quella di De Boer, ti faccio chiedere un voto da Giovanni Capuano. Would you promise Inter support? Hi, I'm very happy to be here. And see you tomorrow at the press conference. What is your dream, Mr. Porto? Okay, grazie. To have a great success with him. De Boer, che deve imparare l'italiano, l'inglese lo parla benissimo. Giovanni. Sì, De Boer, che tra l'altro sta proprio parlando adesso, poi avremo modo anche di raccontare che cosa dice. A me piacerebbe un voto su quest'estate pazza dell'Inter, quindi non su Mancini, non su De Boer, non su Icardi e Vandanara, che ancora sta facendo discutere perché ieri si è rimessa su Twitter a proposito del mercato al tempo dei social. Tra l'altro ho scoperto che è su Facebook, Marino Bartoletti. Un voto su quest'estate un po' pazza, che poi è indirettamente il voto a chi da 50 giorni ha comprato l'Inter e che si è presentato regalandoci questi 50 giorni così. Guarda, secondo me da ieri è ufficiale che Tafazzi è interista. Cioè, esentami dal voto per la simpatia che ho nei confronti di Giacomino, cioè di Tafazzi. Io sono veramente convinto che l'Inter avesse e abbia un organico assolutamente competitivo, che fra l'altro stanno addirittura leggermente completando con quello che vogliono acquistare. Però la domanda è, la prima è, quanto tempo serve a un allenatore per portare avanti un progetto? E in Italia questa domanda ovviamente non ha una risposta. La seconda è, chi comanda all'Inter? Chi fa cosa all'Inter? A me poco tempo fa a Football, la trasmissione di Andrea Scanzi, alla quale ho partecipato, dove sono stato gentilmente invitato, ho detto che il format perfetto per la conduzione di una squadra è quello storico, e cioè un dirigente astrale, celeste, facciamo Agnelli, parlando della vecchia Juventus, un uomo che sa di calcio e si sporca le mani, facciamo Boniperti, sempre parlando di quella Juventus, è un grande allenatore, uomo di mondo, competente di calcio, facciamo Trapattoni sempre per quella Juventus, cosa che è stata declinata ovunque, Berlusconi, Galliani, sa tutte le cose che sono state fatte perché comunque c'era non un concetto condominiale e assembleare di quello che si vuol fare. Poi parliamo di Mancini, non parliamo di Mancini, so che potremmo avere anche opinioni diverse, ma perché comunque in una squadra ci vuole qualcuno che tenga il timone. Guarda, ti regalo una metafora ciclistica, sport che è a tutti caro. La bicicletta è da una parte lo sport più democratico che esista, perché bisogna pedalare sia col pedale destro che col pedale sinistro, ma ci vuole uno che tenga il manubrio e che sappia in che direzione andare. In che direzione va l'Inter? Questa è una domanda che rimane. A noi non è piaciuta, ne abbiamo parlato ieri. So che insomma, il tema non è nemmeno stato particolarmente gradito. Però... Poi c'è anche questa opinione pubblica interista che Mancini non lo poteva più digerire, e ancora i motivi un po' ci sfuggono. Tra l'altro, tu lo sai bene. Marino ha perfettamente ragione. Ti dico che ha appena detto De Boer che i primi contatti con lui l'Inter li ha presi 2 settimane fa. Ma perché evidentemente Mancini era, c'era un pezzo di stagione, Giovanni, che faceva un pezzo di società che faceva una cosa, un pezzo di società che ne faceva un'altra. Ma quello che ho detto ieri è che in maniera del tutto singolare, se vuoi paradossale, Toir ha cominciato ad agire da presidente senza portafoglio, cioè da quando di fatto non è più l'azionista di maggioranza. E questo, qualche domanda me la fa venire, insieme alle cronache in cui leggiamo che procuratori e mercanti stanno agendo insieme a Toir, sono entrati nel tempio, come abbiamo detto ieri, no Marino? E in più c'è uno che si chiama Bolingbroke, che in qualche modo in maniera grossolana potremmo tradurre rompicoglioni, che sicuramente, che sicuramente non, come dire... contribuisce all'assemblaggio di tutte queste correnti che non so veramente, mi sembra il delta del Po, non so veramente in che direzione va quest'Inter, che avrebbe tanti buoni motivi per essere, non dico serena, perché essere sereni in Italia non porta fortuna, però guardandosi attorno, anche come dite voi nell'altra sponda del Naviglio, qui c'erano, ci sarebbero tutti i presupposti comunque per essere leggermente più, come dire, sereni ed ottimisti. Mancini può essere, ripeto, criticabile o non criticabile, può aver fatto bene o può aver fatto male. In realtà, secondo me, nel momento in cui fai a sapere, almeno un'anima di questa società, fa sapere in non so quale lingua, in cinese, in inglese, in marchigiano, a Mancini che si deve fare gli affari suoi, non deve contribuire in qualche modo alla campagna acquisti, è segno che già qualcuno è pesantemente fuori strada. È chiaro. Allora solo per questo sto con Mancini. Grazie Marino. Precisiamo che non faremo mai un titolo con la traduzione italiana di Bolingbroke. Prima che... come dice 4 in cinese. Sicuramente qualcuno lo sa, il mio voto è quella cosa lì, 4. È 4. Grazie Però noi Marino. Avevo precisato, Marino, mai Scusa. Un titolo così, mai un titolo con la traduzione italiana di Bolingbroke. Lo so che è un po' grossolana come traduzione. Però è letterale, siamo vicini alla verità. Marino, grazie. Avevo detto, parlando di canzoni, che sai, ti ricordi che abbiamo parlato del compleanno di Mick Jagger. Insomma, Painted Black dei Rolling Stone mi sembra che sia ancora appropriato. la cerchiamo. Cerchiamola subito, ragazzi. Grazie Marino, alla prossima. Ciao. Traffico. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, messaggi SMS, WhatsApp, contatti che valgono anche per la sera, ragazzi, perché siete un po' fiacchi, un po' pigretti nel parlare di Olimpiadi. 800 24 00 24 e 349 238 6666, ogni sera dalle 18 alle 20. Antonio, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. A lei, dica. Allora, per quanto riguarda la domanda che facevate sull'eventualità di comprare una scheda per la scherma, eccetera, io onestamente direi di no, la comprerei, ma solo un altro perché per il lavoro che faccio io il 90% delle mie notizie la prendo dalla radio, la televisione la guardo poco, quindi in quel senso neanche per il calcio comunque l'ho mai presa, quindi immagini per la scherma, eccetera. Però una cosa, per il fatto che non c'è molto avvicinamento dei giovani a questi tipi di sport, le porto il mio esempio, poi potrebbe essere sbagliato comunque. Ovviamente lei, sapete, i bambini quando sono piccoli oggi vogliono fare una cosa, domani un'altra, eccetera. Però, per esempio, a mio figlio piaceva tantissimo la scherma, veramente tanto, ma io dovevo fare 120 km se volevo portarglielo a fare. 120 andare e 120 a tornare. Non c'era una struttura nelle vicinanze della provincia di Latina. doveva andare solo a Roma. Per quanto riguarda il nuoto, invece l'ho trovata, ma comunque faccio 40 km per portarlo. Certo. In una struttura non proprio all'olimpionica, ma per un bambino, ma più che bene. Alla voce impianti. Faccio 40 e 40. Alla voce impianti. E io continuo a pensare che, insomma, se Roma pone una candidatura olimpica, una delle preoccupazioni da cui partire, non alle quali arrivare dopo, potrebbe essere quella di costruire degli impianti fruibili e di dotare il nostro paese di un maggior numero di impianti fruibili da parte dei nostri giovani atleti, dei bambini che intendono fare queste discipline, perché non è questione di quante righe vengono scritte sullo schermidore, sul nuotatore o sul ginnasta al di fuori del periodo olimpico, quante parole vengono dette per radio, quanto tempo si dedica alla radio o quanti servizi vengono fatti alla televisione. Il vero nodo del problema sta nel permettere a chi vuole fare questi sport di consentire loro di farlo. Questa sì è una preoccupazione, secondo me, legittima. Allora, torniamo sul calcio con vostro grande gusto, perché Pog è andato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Tifosi e tutta la Juve. Un po' un momento di tristezza, voglio dire, perché vado ad un'altra squadra. Termino una storia che ha iniziato molto bene. Io sono molto contento per questo. Ho cresciuto molto e do tante cose alla Juve e a voi tifosi della Juve. È un libro che si chiude e che si apre un'altra parte, però io voglio ringraziare la Juventus e tutte le persone, tutto il staff, tutti i giocatori, tutti i tifosi che hanno cresciuto, che hanno avuto la fiducia di me e hanno creduto in me, scusa. Date sempre il mio cuore. Grazie ancora, grazie per tutti. Grazie per tutti. E mentre c'è in linea Max Nerozzi dalla stampa, mi domando perché tutta questa tristezza, questo momento, questa musica triste. Oh, funerale, ragazzi. Max, la lacrimuccia. Giovanni Melchiori, cos'è? No. Un funerale? Pogba è andato via per un sacco di soldi. Quanti, Giovanni Capuano? Ah, dunque, questo è un grande tema oggi che divide i tifosi della Juve. Adesso giriamo Nerozzi. Divide i tifosi della Juve. Il comunicato dice 105 più 5 di bonus, che sono legati in realtà a quanto resterà Pogba al Manchester United, quindi noi pensiamo che alla fine saranno 110. E poi dice anche che la plusvalenza è di 72,5 milioni. Ora, tutti ci eravamo abituati, per quello che avevamo letto, e soprattutto i tifosi si erano abituati a pensare che la Juve avrebbe incassato 100 milioni netti da tutta questa vicenda. E in tanti si sono chiesti che fine hanno fatto i 32 milioni e mezzo che mancano. Se volete ve lo spieghiamo. Sì, ma dunque, alla fine salta fuori che, intanto c'è il famoso contributo di solidarietà del 5% che viene dato a chi ha formato il giocatore. Non è tutto per il Manchester, perché Pogba è arrivato alla Juve giovanissimo, ma vanno via un po' di soldi. Poi c'è che Pogba, è vero che è arrivato a parametro zero, ma si dice parametro zero, ma in realtà ci sono dei costi, e quindi era ancora a bilancio per una cifra importante. Il 30 giugno di un anno fa era ancora a bilancio per quasi 5 milioni. E poi ci sono i cosiddetti oneri, che sono i soldi che la Juve doveva a Mino Raiola per l'attività durante questi 4 anni, compresi 3 rinnovi di contratto, e anche qui balla qualche milione di euro. E poi una parte della maxi commissione di Mino Raiola, quella roba di cui si è favoleggiato il 20% eccetera, alla fine formalmente l'ha pagata la Juve, e da qui si arriva a quella plusvalenza che è mostruosa, però oggi ha lasciato un po' così tanti tifosi della Juve che si aspettavano che fosse cifra netta. Ho sbagliato qualcosa, Max? Secondo me no, anche se poi dovremo vedere le cifre che salteranno nei prossimi bilanci. Azzardando il conto che tu hai fatto, che erano mi sembra 4 milioni e 710 mila euro ancora a carico, il valore di 4.2-4.3, sì. E diciamo che conto potrebbe essere, diciamo, 82 milioni di euro e 300 mila, insomma, roba del genere, purato dagli oneri e commissioni che tu dicevi, però appunto per essere precisi dovremmo aspettare e cosa salterà fuori dalle carte. Comunque mi pare che ok il prezzo sia giusto, no Max? Secondo me ok il prezzo è giusto, anche perché parliamo di un centrocampista. E la musichetta funerale che dici tu prima, a me fa un po' ridere, perché qua secondo me c'è stato un po' lo stravolgimento delle parti. Cioè Higuain per due settimane è stato impallinato, uno cui è stata pagata la clausola. Il signor Paul Pogba va via perché gli danno più soldi, punto a capo. Uh-huh. E voglio dire, Pogba quest'altro anno quante possibilità di vincere la Champions? Zero, le stesse di Carlo Genta. Sì, zero. Uguale, proprio uguale. Forse il secondo anno ancora di più fosse stato la Juve, forse, magari Manchester fa bingo, vince la Premier, va in Champions, vince subito. Però serve un po' di tempo. No, certo, quindi voglio dire, legittimo, io sto con Carlo quando dice che i giocatori sono professionisti, quindi tu vai anche per la busta paga, non è una vergogna, però la differenza è che Higuain poteva stare a Napoli e prendere 7 milioni e mezzo che gli dà la Juve, perché De Laurentiis li avrebbe dati. La Juve non avrebbe mai dato neanche 10 milioni di euro a Pogba, figurati 12 più 6-7 di immagine, quindi insomma, francamente mi fa veramente un po' sorridere tutto questo teatrino. Tu parlavi dei mercanti del tempio, diciamo che Raiola è il tempio, forse non è neanche un mercante. Raiola è il tempio, tanto che prima o poi ce lo aspettiamo all'assalto di qualche importante club. D'altra parte lui ha detto di aver cercato la Roma, e anche di aver cercato il Milan, pensato di prendere la Roma, di prendere Milan. Penso che sarebbe una sorta di rivoluzione non so quanto positiva, ma comunque lasciamo che questi discorsi rimangano altamente negativa. Però ragazzi Mino Raiola, qualcuno gli ha fatto i conti in tasca, è uno che negli ultimi anni ha incassato qualche centinaio di milioni di euro. Sì Giovanni, nessuno lo mette in dubbio, ma nessuno mette in dubbio che sia un bravissimo procuratore. Cioè può starti antipatico, puoi criticarlo, contestarlo, dire che è un ex pizzaiolo, puoi parlare male di lui, ma non puoi dire che non sia un eccellente curatore degli affari dei suoi assistiti. Però a parte Mino Raiola e a parte Pogba, o meglio, Mino Raiola l'affare l'ha fatto sicuramente e avrà il bonifico. Pogba vedremo, perché giustamente Max dice lascia una squadra grandissima, va in una squadra grandissima, perché certo, Manchester United è grandissimo, però oggi ha meno garanzie di vincere. Ma non è Cometo che si è andata a seppellire ai confini dell'ex impero sovietico. L'affare, chi l'ha fatto? Cioè, chi ci ha guadagnato di più da questa cosa? La Juve che chiude questa operazione qui dal punto di vista economico, o il Manchester? Oggi c'era una roba sui social fantastica, non so se Max l'ha visto, era un fotomontaggio di Amazon con prezzo di partenza 800.000 corretto in 105 milioni, che insomma, non è che gli inglesi escono bene. È vero che adesso hanno fatto Pogback, torna a casa, Reunited e tutto quello che volete, però la verità è che in 4 anni si sono bruciati 100 milioni di euro. Io sono d'accordo. La Juve fa un affare perché il giocatore non voleva più stare lì, quindi il giocatore di questo livello non li puoi costringere. B, vendi un centrocampista a quella cifra lì, puoi migliorarti la squadra. E poi io torno al discorso che facevamo l'anno scorso con Vidal. Tu dai via un giocatore che ti ha fatto vincere 4 scudetti Pogba, 5 scudetti Vidal, e fai una plusvalenza. Meglio di così è molto dura, eh? Beh, chiaro. Chiaro che è molto dura, ma soprattutto, come dici tu giustamente Max, la Juventus non era in grado di garantirgli quell'ingaggio, e altrettanto giustamente secondo me Pogba è andato a prendere i soldi dove glieli davano, e non è una vergogna, non deve essere una vergogna per un professionista, anzi ritengo sia la decisione corretta, tanto più che, ti ripeto, non è andato a seppellirsi calcisticamente ai confini dell'impero, come legittimamente fece Eto'o un giorno. È andato a giocare nel Manchester United, che vincerà le stesse Champions League che vinco io l'anno prossimo, ma ne riparliamo. Pogba ha tempo di aspettare. Assolutamente. Max, grazie. Alla grazie prossima. A voi. Ciao. Ciao. E comunque, anche nel caso di Eto'o all'Inter non si strapparono i capelli. No, ma fu una scelta professionale, plausibile. Non ti dico condivisibile, perché poi ognuno valuta le cose come vuole. Un conto è decidere ok, abbandono il calcio ad alto livello e a 30 anni, quanti ne aveva Eto'o, una cosa così, vado ai confini dell'impero per poi tornare a farmi ricoprire di soldi. Un altro è dire rimango nel calcio che conta e rinuncio a una vagonata di milioni. Ognuno fa i conti che vuole. Ci fermiamo per la borsa, poi ci sono Francesca da Roma e Stefano pure da Roma. 800240024, numero verde, messaggi e WhatsApp al 349-238-6666. Paghiamo musicisti alla fine del ballo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Ivane, andiamo subito dagli ascoltatori, cosa dici? Sì, Francesca. Poi ti racconto di De Boer. Sì, Francesca. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare l'attenzione un pochino alla grossa discrepanza che c'è tra sport e sport, sto parlando di sport minori rispetto ad altri. Ci sono degli sport che si possono fare nelle scuole, si possono fare nelle palestre pubbliche e le associazioni che ne possono che le possono fare sono avvantaggiate non poco. Ci sono degli sport tipo l'equitazione che hanno dei costi enormi e il CONI non aiuta i centri violenza allo sport, non aiuta nessuno, ma distribuisce a pioggia. Ma non ci sono gli stessi costi quando solamente una patente per poterlo far lavorare costa 30 euro l'anno e un costo minimo mensile per un bambino è di 100 euro perché non si può proprio far di meno per una volta a settimana. Ma come si fa se non ci sono degli aiuti? Non certo. Riesco proprio a capire come questo possa essere possibile. Questo è un può essere certamente oggetto del contendere, non tanto l'esposizione mediatica di questo o quell'altro sport quanto i costi di gestione dei vari sport e i costi di gestione e i costi di utilizzo dei vari impianti. Questo è certamente un discorso praticabile, poi è altrettanto intuitivo notare come se tu vai a giocare a calcetto il campo ti costa 80 euro diviso in non so, in 10, in 14, se tu vai a praticare l'equitazione fatalmente i costi sono più elevati. Ora non so quanto il CONI possa erodere con i contributi questa maggiore incidenza, ma è certamente un problema interessante. Tra l'altro noi dobbiamo ricordare che questa Olimpiade arriva alla fine di un quadriennio in cui i contributi al CONI sono stati asciugati, perché è il momento economico italiano generale, l'economia, insomma, è inutile che stiamo qui a ripercorrere tutto, e fra i tanti tagli ci sono stati anche i tagli allo sport che poi hanno avuto ripercussioni su tutto, su queste forme di finanziamento. Per questo, attenzione, il medagliere di questa Olimpiade sarà un medagliere in cui di sicuro ogni medaglia è stata davvero sudata. E noi abbiamo visto tanti tecnici italiani migliori sono andati via perché altrove potevano guadagnarsi da vivere, magari anche guadagnare bene, e da noi facevano fatica, pur nella logica dei corpi militari, tutto quello che conosciamo, certo, ad avere degli stipendi all'altezza con della loro professionalità. Alessandro? Sì, eccomi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e complimenti, perché più volte riesco a prendere la linea. Non mi posso esimerli da farveli, perché il panorama nazionale non offre assolutamente di meglio. Grazie. Detto questo, ho acceso la radio un pochettino tardi, quindi probabilmente è stato un argomento già toccato, quindi ma non sarò originale. Su ogni argomento torniamo volentieri. Ok, la butto lì. Ma secondo voi Pogba non è sopravvalutato in assoluto, al di là dei 120 milioni? Ma diciamo che il Manchester United compra dei futures, no? Come direbbe Barisoni, Giovanni. Compra il Pogba attuale, il talento che Pogba possiede già ora, l'incidenza, l'influenza che può avere su una squadra che è già elevata, ma acquista soprattutto ciò che Pogba potrà diventare. Io credo che il Manchester United e l'Adidas facciano un investimento che va oltre il semplice valore tecnico sul campo. Se avete pazienza, andate a guardarvi i video che oggi sono stati messi online dal Manchester United nella notte, quelli che annunciano il ritorno di Pogba al Manchester United, e vedrete che questo legame, ad esempio, con l'Adidas è strettissimo. Credo che noi sappiamo tutti che da qualche mese, insomma, Pogba è diventato uomo immagine legato all'Adidas ed ha un contratto pesantissimo. Adidas che spende 100 milioni di euro quasi all'anno per mettere il suo logo sulle magliette del Manchester United. Io credo che sia impossibile scindere questi discorsi. Quella valutazione è una scommessa sul futuro, è già una valorizzazione di quello che è Pogba a livello di immagine, non solo a livello tecnico, ed è soprattutto il prodotto di un ragionamento di marketing. Credo che questa sia la corretta chiave di lettura. Ha detto questo, rimane il domandone: il Manchester United calcisticamente possiamo dire abbia fatto un affare oppure no oggi? Ma sì, credo di sì. Credo che alla fine si porta a casa un potenziale futuro pallone d'oro, e quindi certamente non ne ha preso uno scarso. Però è evidente che oggi ha comprato un giocatore che non vale quei soldi lì. Forse non li vale neanche un attaccante quei soldi lì in questo momento. Faceva bene prima Max Nerozzi a sottolineare che ha comprato un centrocampista. Io immagino che il prossimo grande attaccante che dovrà cambiare casacca, se la valutazione di Higuaín è 90 e un quasi trentenne, e la valutazione di un centrocampista come Pogba è 105+5, potrà rapidamente sfondare anche quella soglia lì. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di tenermi compagnia, che sono infortunato, reduce da un'operazione, e allora le vacanze saltano e vi fate compagnia voi anche alle 6. Bravo. Bravissimo. Perché non ci chiama mai? Vi chiamo a volte non si riesce a prendere la linea, a volte sono fuori per le terapie e quindi di conseguenza riesco. Vabbè, ma allora, quando ce la faccio venga a trovare, perché è veramente bellissimo la sera di chiacchierare di Olimpiadi e farlo con gli ascoltatori, ve lo assicuro. Guardate, ero orfano della zanzara e quindi di conseguenza orfano, avere riuscito con voi mi rende la cosa piacevole. Molto bene, molto bene, faremo presente. Dica. Allora, io sono tifosissimo interista, ho frequentato lo stadio per un sacco di anni, ancora ai tempi del famoso gol di Rummenigge rovesciata incontro i Rangers, annullato da un arbitro tedesco, quindi vi dice quanto sono datato come stadio, come cosa. Parlavo di due cose dell'Inter. La prima, allora, non concordo con il nostro carissimo amico che stimo, Marino Bartoletti, quale comprava il Guerin Sportivo quando ero giovane e lui era direttore, e ho sempre ammirato, però non concordo che siamo i tapazzi, gli interisti siamo tapazzi. Da quel punto di vista qua no. Io che ho anche Inter Channel, ho visto le interviste del nostro Mancini, che io stimavo tantissimo, purtroppo sembrava veramente, come si dice dalle nostre parti, una fighetta infiammata, perché veramente già dalla prima amichevole con gli austriaci sembrava, rispondeva con una maniera proprio scazzata, proprio non voleva saperne quasi di essere intervistato, e in proseguo è stato quello che era. Allora io dico meglio oggi. Sì, Giovanni, però no, allora io sono d'accordo sul fatto che se esautorato meglio a maggio che oggi agosto, ma meglio 8 agosto. Giovanni, però meglio l'8 agosto che l'8 novembre. No, so che poi i tifosi dell'Inter la pensano in tanti come Giovanni, perché poi Mancini ha un carattere particolare, perché poi tutti sono rimasti scottati dal girone di ritorno dell'anno scorso, e quindi la valutazione è che non è neanche stato fatto un buon lavoro, cosa che io credo invece sia un errore, perché oggi Mancini lascia un Inter profondamente migliore di quella che ha trovato nel novembre del 2014. Però il tema è che probabilmente Mancini, al di là del carattere, non aveva tutti i torti nelle cose che lo urtavano e che lo rendevano anche così nervoso, così distaccato, così come lo ha descritto Giovanni. Non aveva tutti i torti. Vediamo cosa farà De Boer. Facciamo il bilancio fra qualche mese. De Boer prima ha detto, ad esempio, che non è la situazione ideale quella di arrivare a metà agosto, ed è evidente, vuole tenere tutti per il momento, poi si vedrà, ma i tempi per vedere la sua squadra, la sua Inter, sono lunghi, e ha detto arriviamo alla sosta di Natale, poi vedrete come gioca la mia squadra. Beh, ma quindi condividi l'impressione, che sia l'impressione, l'opinione da più espressa, che sia stato buttato via comunque un anno e mezzo di lavoro con Mancini, perché questa è una squadra di Mancini, perché ha caratteristiche volute da Mancini, De Boer magari ne vorrà delle altre, ci sono dei giocatori che gli andranno, altri che non gli andranno. Beh, io auguro che l'Inter nelle 18 partite che ci sono da qui a Natale non butti via la stagione, però De Boer ha chiesto di fatto mezza stagione prima di arrivare a vedere la sua squadra. Ha detto che Banega può essere perfetto da regista. Ora Mancini lo stava facendo giocare l'unica volta che l'abbiamo visto giocare, ed è stata una piacevole visione. Aveva giocato in quel primo tempo con il Tottenham più vicino alle punte, più libero, e come l'abbiamo visto giocare fino all'anno scorso in nazionale. Attenzione, perché quelli sono giocatori che o trovi immediatamente il feeling e la collocazione, oppure poi diventano un problema per la squadra. Invece Banega deve essere un valore aggiunto, non poterci lavorare un'estate, arrivare magari con un'idea diversa come potrebbe avere Frank De Boer, non è detto che necessariamente sia una buona notizia. Tra le buone notizie ci metto che ha detto che Icardi deve assolutamente restare e resta. Ma io non ho grandi dubbi sul fatto che a questo punto Icardi non si muoverà da Milano per alcuna cifra, anche se il Napoli ci sta di nuovo provando, credo più che altro per la facciata che per non per un reale obiettivo. Traffico, torniamo con Pietro. Tutti convocati. Tutti convocati. Mi correggo, l'ascoltatore in onda non era Pietro ma Piero, quindi levo una T. 800240024, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, dica. Senta, io sono un grande ammiratore, sono milanista, però sono un grande ammiratore del presidente del Napoli, De Laurentiis. Perché? Il vero campione è lui. Perché la fa divertire? Non Higuain, non mi fa divertire. È un furbacchione, lui rappresenta, immortala, fotografa la fantasia di Napoli, l'improvvisazione. Lui ha fatto sentire colpevole Higuain, ha fatto sentire lo scrupolo di coscienza Higuain, invece è stato lui il grande furbacchione che ha venduto per un sacco di soldi. Ha scaricato Higuain, ormai ha fatto questo giochetto mentale per cui ha detto: quello va a cantare sotto la curva, traditore, rubentino, e poi va via. Quando lui in realtà aveva appiccicato il cartellino del prezzo di Higuain, la Juventus è arrivata lì, l'ha visto in vetrina. Credo però, ha detto: sì, questo mi va. Per non deludere Piero, credo che Higuain abbia dormito serenamente. Sì, non è che gli ha fatto venire Giovanni, credo che abbia dormito serenamente e lo faccia tuttora con buona pace del suo conto in banca. Voglio dire, è stata una manovra di calciomercato. Poi ci sono ovviamente dei rilievi campanilistici che non possono essere trascurati, però è stata una manovra di calciomercato riuscita da entrambe le parti. Ma sai chi abbiamo? Chi abbiamo? Abbiamo il telecronista della Supercoppa Europea di quest'anno. Si chiama? La spalla di Aldo Serena. Si chiama? Sai che Aldo Serena è andato in giro a fare scoop per tutta l'Europa? Sì, ecco, sì. Lavora con un collega, un ragazzo. Sì, che si chiama? Che sta cominciando. Non lo so, non mi ricordo. Gianluigi Pardo, mi Gianluigi, pare. Gianluigi, sì. Ciao, Piero. Gian Piero. L'1% di batteria. Hai l'1% di batteria. Allora, parlo velocemente. Ho visto il tuo post dove hai un albergo che dà direttamente sul campo e potresti fare la telecronaca da lì, vero? Esatto, è il mio progetto per la serata. No, parte tutto, abbiamo veramente un albergo molto comodo, nel senso che è dentro lo stadio e si vede la partita, volendo, quindi deve essere un'idea, però insomma penso sia più sano stare comunque in postazione. È l'atto iniziale della stagione, è un Real Madrid abbastanza strano perché ha speso solo 30 milioni sul mercato, che sono quelli della ricompra di Morata. È la grande notte di Morata, deve essere necessariamente, insomma, fin qui non ha convinto del tutto, ma è certamente un giocatore che ha le possibilità per fare cose molto importanti, se non è anche a Madrid. Insomma, la BBC, che stasera probabilmente non vedremo, almeno dall'inizio, perché Bale e Cristiano Ronaldo sono fuori e Benzema dovrebbe partire, credo, dalla panchina, potrebbe essere quest'anno insediato con una M, mettetela dove volete, magari tra BPM o qualcosa del genere. È un po' meno enfatica come espressione, come acronimo, perché non c'è una televisione inglese che si chiama BBM, ma sta Morata punta una maglia titolare abbastanza regolare quest'anno sul Real Madrid. Siviglia, che è maestro nel cambiare ogni anno, nel vendere e continuare a vincere in Europa League e fare grandi cose, quest'anno è veramente arrivato alla al grande bivio, perché ne ha venduti tanti, perché è vero che ha anche qualcosa di nuovo interessante come ad esempio Vasquez, però la mia sensazione è che si sia un po' indebolito, ha perso tutta una serie di giocatori fondamentali per le ultime stagioni. Una politica che Monchi, che è il direttore del Siviglia, ha fatto benissimo, le segretariate fanno bene a prendere appunti, però insomma, sono abbastanza curioso di vedere che cosa farà in questa nuova gestione. E poi ha perso Emery, che fin qui che era l'architetto di quella roba lì, cioè che Monchi gli cambiava le pedine tutti gli anni e lui era poi capace di rimettere insieme il puzzle. Chissà se gli riuscirà anche quest'anno. Quando torni, Pier? Torno in Italia a breve. Da noi. Dopo Ferragosto. Perché sai che noi siamo alle prese con le Olimpiadi. Che Pardo sta seguendo minuto per cosa fai minuto. Stasera tra le 18 e le 20? Va al campo. Cosa fai? Tra le 18 e le 20 preparo la partita. Da adesso in poi io sono per la preparazione. Malissimo. A ridosso, devi ascoltare tutti i convocati alle Olimpiadi. Ma l'ascolto in streaming tutti i giorni. Ti piace? Ti piace? Mi piace moltissimo, ma poi ieri avete fatto quella gag lì, quel collegamento con, come si chiama? Quella cosa lì, sono morto dalle risate. Quale? Quella, non lo so. Dillo con parole tue. Non l'ho sentita. No. E quindi però vi seguo sempre. Buone. Bravo Pierluigi. Noi ti aspettiamo con grandissima fiducia. L'estate di Trondheim non si può resistere, no? Qui c'è proprio un bellissimo clima. Vi manderei una foto. Adesso vi mando una foto. Fallo. Proprio veramente viene voglia di vivere. Scrivi anche la temperatura, rapida descrizione della fauna locale e mandaci un cuoricino. In questo momento, grande entusiasmo, e un sacco di spagnoli in città, che è a 1800, per il resto, grande Smorrebrot, che è il loro sempre. Smorrebrot, naturalmente. Ciao Pier. A presto, ciao amico mio. Allora, ci sentono anche dalle Fiandre e ci correggono facendo i complimenti, ma non si pronuncia De Boer, ma De Boer. De Boer. De Boer. De Boer. Comunque, complimenti per la trasmissione, vi sento dalle Fiandre. Molto bene, De Boer. Bene. Già fai le prove, De Boer. De Boer. Fabio D'Ancona. Fabio. Salve, buongiorno. Faccia le prove, De Boer. De Boer. Dica. Mi sentite? Sì, dica De Boer. Di Bur, ok. Allora, premesso che faccio, io sono un vecchio ascoltatore da tempi di Garanzini, quindi l'ascolto da molto tempo e se fosse possibile la trasmissione è ancora migliorata. E detto questo, domani sera andrò a vedere la mia Inter, che per il secondo anno gioca qui ad Ancona, e a parte diciamo il rapporto che mi lega al Manchu, perché vabbè, l'anno scorso mi aveva fatto una cosa personale molto carina, non l'aspettavo, ma a parte questo dico che quel bambolotto di Tuir, perché tutte le volte che lo vedo mi viene da ridere, ha sbagliato veramente tutto, cioè come dicevate prima, io non l'avrei mai mandato, cioè se doveva essere mandato via, doveva essere mandato via a maggio. Sì, anche perché la fiducia era venuta meno lì, probabilmente mancava il casus belli, non so se il casus belli possa essere stato l'1-6 di Tottenham. Io te l'ho detto Tottenham. Venerdì, Carlo. Sì, certo. Tu mi hai detto confermo. No, impossibile, no, e io ti ho detto preparati che sarà un weekend, ragazzi, intenso. Devo confidarvi che Capuano dopo l'1-6 con il Tottenham mi ha detto stai attento che adesso succede il terremoto. Io ho detto ma va, cosa vuoi che succeda, amichevole d'agosto. Invece aveva ragione lui. Alessandro. Sì, salve, buonasera. Niente, buonasera. A me dispiace che è andato via Mancini, perché da interista? Da interista, certo, perché comunque era uno dei pochi interisti in società, a parte Zanetti, cioè, però comunque Tohir, io devo dire che ultimamente sui 2 anni non ha sbagliato nessun colpo rispetto invece a quello che diceva l'ascoltatore precedente, perché comunque le ha azzeccate tutte. Dall'acquisto di alcuni giocatori anche alla cessione del 70% della società. Sì, però il paradosso, quindi, Alessandro, è che i giocatori che ha preso poi in realtà ha spinto Mancini per prenderle, certo. E tanti tifosi dell'Inter dicono Mancini ha fatto il mercato da star e diventa una colpa invece che un valore, invece hai ragione, Perisic, Brozovic, ce ne sono tanti di giocatori buoni. Non li ha scelti . Poi tanto Tohir quei giocatori. No, però vabbè, comunque alla fine li hanno presi. Penso che manca solo un giocatore di centrocampo che faccia giocare bene questa squadra, che secondo me ha De Boer, serve. Prova a ripeta come ha detto. No, come si chiama? È giusto, è giusto. C'è scritto un giocatore di centrocampo e basta. Tipo Luis Gustavo, che voleva peraltro anche Mazzarri. Ma Luis Gustavo, che, ma sì, però Luis Gustavo è un giocatore diverso. Luis Gustavo è un giocatore di quantità più che di qualità. Di quantità, ma anche... E non è il regista che... No, non è un regista, ma anche serve piedi per l'impostazione. Può fare... Non ti dico il playmaker, ma il recuperatore di palloni. Beh, più di Medel, dai Giovanni. Più di Medel va bene, però se devi andare a spendere 20 milioni per prenderti un giocatore, magari di lui, come Luis Gustavo qualcuno ce l'hai già in questa rosa. Tipo? Beh, l'Inter ha Felipe Melo, a Medel. Felipe Melo, secondo me, De Boer non lo vuole neanche vedere. A Kondogbia, a Brozovic, che potrebbero giocare in in quei due, sempre che il modulo sia il 4-2-3-1. Secondo me Luis Gustavo non è esattamente quello che serve. Poi vediamo. Giorgio? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che secondo me Mancini è stato molto sopravvalutato come allenatore. Perché il primo anno, diciamo, è comprensibile, è arrivato a metà stagione, quindi più di tanto non ha potuto fare. Ma dalla seconda stagione in poi lui ha fatto il mercato che voleva, gli hanno comprato quasi tutti i giocatori che voleva e quindi non è che abbia ottenuto dei grandissimi risultati. Ma Giorgio, l'Inter che lascia, a parte che l'Inter di Mancini nell'anno completo ha fatto 7 punti più dell'Inter di Mazzarri nell'anno completo, visto che c'è anche in giro il paragone tra Mancini e Mazzarri. Giorgio, l'Inter che lascia Mancini, e che hai ragione, ha costruito Mancini magari facendo i capricci, battendo i pugni sul tavolo, chiedendo, insistendo, è meglio o peggio di quella che era? Editato. Ma secondo me, cioè, se tu sei un tifoso dell'Inter, sei più tranquillo oggi o eri più tranquillo a novembre del 2014? Secondo me Mazzarri non aveva fatto così male, pur non avendo quel parco giocatori lì. Però il fatto di essere bravi a farsi comprare i giocatori, dote che appartiene molto più a Mancini che non a Mazzarri, è un vantaggio per un club. Secondo lei l'acquisto, il essere bravi a farsi comprare i giocatori è una dote? Sì. Basta avere i soldi. Ma guarda, è una dote dei tutti migliori, l'abbiamo detto ieri. Guardiola è uno che si fa prendere i giocatori. Mourinho è uno che si fa prendere i giocatori. Conte è uno che si fa prendere i giocatori. Non è che Ancelotti non li chiede. Se sono tifoso di una squadra, non mi dispiace avere un allenatore di carisma che punti i piedi e che comunque fa acquisire al mio club dei giocatori importanti. Non posso essere triste per questo fatto. Giustamente Mario ha ragione, quindi noi rettifichiamo immediatamente. Occhio a parlare male di Medel, perché viene a prendervi in Monterosa, che è anche vicino. Medel è un regista perfetto. Io aspetto Medel a pie fermo, secondo me è uno che ha due piedi, che sono due ferri da stiro, quindi a far ripartire l'azione. Certamente bravo in molti altri aspetti, per carità. Medel, se vuoi vieni bevi un caffè, ma no, noi rettifichiamo. Io non rettifico. Secondo me è uno che, cioè, se gli dai la palla per far ripartire l'azione, già parti con l'handicap. Andrea, buongiorno. Senta, per quanto riguarda il problema di quell'ascoltatore di Latina, che logicamente si doveva fare 120 km perché la struttura sportiva non c'era, io non voglio essere noioso, ma il problema è politico, cioè non c'è l'investimento nelle scuole per quanto riguarda le strutture sportive. C'è la solita noiosa palestra in cui si fanno tutti i sport ma a livello confusionale, e manca la cultura sportiva, come invece succede, che ne so, vi faccio per esempio gli Stati Uniti, nei famosi licei, negli Stati Uniti, cioè o l'Inghilterra, anche la Francia. Quanti anni ha lei? Io 46. Perfetto, io 48. Giovanni Capuano è un pelo più giovane di noi, ma possiamo andare a pescare anche Leo Turrini e domandargli dove faceva ginnastica ai tempi del liceo, e avremo tutti la stessa risposta, cioè in luoghi inadatti, in luoghi che vengono spacciati per palestre, in cui si gioca un po' a pallavolo con la rete moscia, si gioca un po' a calcetto con il beneplacito del professore, le pertiche una volta ogni tanto. L'ora di ginnastica in Italia è questa, un programma sportivo è un'altra cosa. Giovanni, ci vediamo dopo. Ci vediamo alle 18. Oggi è la sera che porta la notte della divina. la sera che porta alla notte della divina. Quindi vi daremo tutte le istruzioni per l'uso, d'accordo, per non perdere Federica Pellegrini questa notte. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori in redazione insieme ad Alvise, il mitico Alvise, e ci sentiamo dopo dalle Alvise Falzone, naturalmente. Ci sentiamo dopo dalle 18 alle 20 per tutti convocati alle Olimpiadi e guai a voi se non chiamate. Vado a giocare, ci vediamo dopo. The Lure.